Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda la borsa, vi dico subito che oggi la situazione è calma, meno 0,36% su Milano, più 0,33% su Parigi, più 0,70% su Francoforte, Londra più 0,30%, euro a quota 1,07. Tra i titoli oggi particolarmente bene STMicroelectronics, più 4,22%, e Ferragamo più 3,60%, Tods più 3,40%, CNH più 2,5% come Exor, Atlantia più 2,30%, Moncler più 1,32%, Autogrill più 1,25%, Campari più 0,90%, Luxottica più 0,90%. Fronte opposto invece per le banche, in particolar modo quelle popolari, meno 3,70% la Pop Milano, meno 3,40 Popolare Emilia Romagna, meno 2,40 il Banco Popolare, meno 2% Monte dei Paschi, cede anche Saipem il 2,5% e Mediolanum l'1,70% come generali. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ci occuperemo di oggi di fisco, il pacchetto di novità fiscali oggi in Consiglio dei Ministri, la fattura telematica, l'abuso di diritto e anche il raddoppio dei termini per le indagini tributarie. Parleremo anche però della fattura elettronica e di alcuni elementi che possono complicare in qualche modo l'adeguamento della fattura elettronica a quello che è che sono le procedure fiscali classiche. I commercialisti, e li ascolteremo, fanno notare che dal nuovo 730, modello 730 precompilato, si rischia di perdere 1,5 miliardi complessivamente di possibili rimborsi fiscali, con la conseguenza che questo diventerebbe un tesoretto per il governo, perché la gran parte, devo dire che l'Agenzia delle Entrate questo l'aveva chiarito, la gran parte dei modelli 730 precompilati dovrà essere integrata non includendo le spese sanitarie o altri oneri detraibili, tra i quali quelli al 19% che sono certamente più significativi. Arriveremo anche a questo, e poi la Banca d'Italia che dice al governo, sostanzialmente sintetizzo, beh, se c'è un tesoretto utilizzatelo per abbattere il debito e quindi per i conti pubblici, e a mio avviso mette la parola fine a qualunque idea alternativa sul tesoretto, perlomeno mette una parola importante se non finale, perché la parola finale giustamente sta al governo, su come utilizzare il tesoretto. Ma da tempo il Sole 24 Ore fa notare che, insomma, parlare di un tesoretto con questo andamento dei conti pubblici è quantomeno una contraddizione in termini. Allora, rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dalle notizie internazionali, e questa volta è la volta della Russia, nel senso che oggi il premier russo Dmitry Medvedev in un intervento al Parlamento russo ha precisato che le sanzioni dell'Europa, degli Stati Uniti alla Russia per la vicenda ucraina hanno creato a Mosca un danno da 25 miliardi di euro, pari all'1,5% del PIL, ma quest'anno potrebbero arrivare le sanzioni occidentali contro la Russia a creare un danno fino a 75 miliardi di euro, pari quasi al 5% del PIL russo. E poi sempre il premier russo Medvedev dice: attenzione, bisogna prepararsi alla nuova realtà economica, se aumenta la pressione esterna e il prezzo del petrolio resta basso. Sta costando parecchio, devo dire, alla Russia di Putin la vicenda ucraina. Oggi un'apertura in Germania, vediamo poi se alle parole seguiranno anche i fatti, sul tema famoso di una Germania che ha un surplus nella bilancia e si dice alcuni paesi dell'area euro devono risparmiare, quindi tenere il deficit sotto il 3%, altri che devono spendere e investire un po' di più per loro stessi, non per gli altri paesi. Questo per avere un'area economica più equilibrata tra paesi virtuosi e paesi che devono fare i compiti a casa. Oggi il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che è appunto da sempre ritenuto un falco, ha detto: useremo ogni spazio di manovra che potremo guadagnare nella politica finanziaria per aumentare gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche. Al momento il governo ha già stanziato un pacchetto di investimenti aggiuntivi di 15 miliardi di euro per gli anni 2016-2018. Quanto al fronte opposto invece, la Grecia, oggi mentre uno dei principali consulenti della Casa Bianca, Jason Furman, che è il presidente del consiglio degli advisor economici, dei consulenti economici di Barack Obama, dice: una soluzione della crisi è nell'interesse del mondo intero, se la Grecia e le istituzioni non trovano una strada, questo non solo sarebbe terribile per la Grecia, ma sarebbe anche un rischio per l'economia globale, che l'economia globale non vuole assumersi. Dicevo, quindi l'allarme e la preoccupazione c'è anche negli Stati Uniti. Questo in qualche modo, se volete, anche una risposta a chi ci dice: ma perché vi occupate così tanto della Grecia? Beh, insomma, questa è una risposta. Non ci preoccupiamo solo noi e occupiamo solo noi della Grecia. Perfino la Casa Bianca è molto preoccupata. Oggi il premier greco Tsipras ha annunciato che incontrerà Angela Merkel in una bilaterale giovedì, a margine del vertice straordinario convocato a Bruxelles dall'Unione Europea per l'emergenza migranti, quindi non c'entra nulla la vicenda greca, e il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto: siamo pronti a tutto, a qualsiasi evento, ma escludo al 100% una Grexit, quindi il fallimento della Grecia e l'uscita della Grecia dall'euro, precisando anche che non ci sarà un default, un fallimento. In realtà molti osservatori fanno notare che le due cose sono abbastanza diverse. La Grecia potrebbe restare nell'euro pur essendo accompagnata a un fallimento tecnico. Certo che sarebbe un percorso pieno di insidie e di rischi, però dire banalmente che se la Grecia va in default e esce dall'euro è un'inesattezza. Sempre sul fronte greco, purtroppo invece fonti europee che stanno preparando il vertice dell'Eurogruppo di Riga venerdì prossimo fanno notare che si è ancora molto lontani da vedere un risultato per un possibile accordo. La Banca Centrale Europea starebbe allo stesso tempo valutando misure per limitare l'afflusso di liquidità d'emergenza alle banche greche. Una buona notizia per tutti quelli che devono contrarre un mutuo o hanno un mutuo a tasso variabile o lo vogliono contrarre a breve. Perché lo dico? Perché l'Euribor, il tasso interbancario, quello che serve come riferimento per calcolare gli interessi sul mutuo, beh, è sceso per la prima volta nella sua storia sotto lo zero. Questo come effetto del quantitative easing della Banca Centrale Europea, l'acquisto di titoli di Stato operato da Mario Draghi, 60 miliardi al mese da qua fino a settembre del 2016. Buona parte di questi acquisti vengono fatti poi dalle banche centrali dei singoli paesi. Dicevo, l'Euribor è sceso a meno 0,001, è zero, però è la prima volta che c'è un segno meno di fronte al tasso di riferimento interbancario. E per la prima volta nella sua storia anche la Spagna vede rendimenti negativi sui titoli di Stato, meno 0,029%, il bot spagnolo a 3 mesi, e quello a 9 mesi è sostanzialmente a zero, 0,009%. Lo spread nostro è a 140 punti con un BTP italiano all'1,48% su 10 anni, quello spagnolo è ancora leggermente sotto a 139 punti. Dicevamo della Banca d'Italia, ne parleremo più avanti. Ha detto comunque la Banca d'Italia: l'incertezza sulla Grecia resta elevata. È l'audizione, diciamo, al Senato della Banca d'Italia, che deve commentare, come hanno fatto ieri Confindustria e sindacati, deve dare il suo giudizio sul DEF, sul documento economico finanziario. Dice: lo scenario per il 2015-2016 presente nel documento del governo è plausibile, anche se non esente da rischi a breve termine. I miglioramenti della fiducia devono consolidarsi, e poi resta l'incertezza sulla Grecia. La cosa più importante, a mio avviso, però, come anticipavo, è la valutazione espressa dal vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, durante l'audizione. Ha detto: attenzione, se anche dovesse esservi un tesoretto, che sarebbe comunque modesto, è tutto dovuto alla minor spesa per interessi, cioè il fatto che con i rendimenti ai minimi storici dei titoli di Stato all'Italia costa il minimo storicamente trovare finanziatori per il suo debito. E questo è un risparmio: noi paghiamo circa 70 miliardi di interessi l'anno, si è calcolato che con questi rendimenti il risparmio, chiaramente non solo quest'anno perché i rendimenti sono già calati gli anni scorsi, potrebbe essere intorno ai 3 miliardi anche quest'anno, dai 2 ai 3 miliardi. Detto questo, dice il vice direttore generale della Banca d'Italia, visto che è dovuto al minor pagamento di interessi sul debito, questi soldi vengono utilizzati per il riequilibrio della finanza pubblica. Per l'anno in corso la deviazione rispetto agli impegni circa la riduzione del disavanzo strutturale, un decimo punto percentuale, come ho detto, è modesta, ma in linea di principio e coerentemente con lo spirito della normativa in materia di finanza pubblica, appare opportuno che un andamento tendenziale del saldo migliore delle attese, peraltro dovuto interamente alla minore spesa per gli interessi, a sua volta legata alle eccezionali condizioni della politica monetaria, sia utilizzato per accelerare il riequilibrio della finanza pubblica. E oggi in audizione anche la Corte dei Conti, che ha detto: è credibile un PIL allo 0,7% pur con le molte incertezze. Nel 2015 non disperdere il tesoretto, resti per le riforme. E poi esprime preoccupazione la Corte dei Conti per i tagli ripetuti di risorse, portino a un peggioramento della qualità dei servizi e aumento delle imposte anche su base territoriale. Il problema, come abbiamo fatto notare ieri e come diceva anche la direttrice generale di Confindustria Panucci in audizione, è che se tu fai i tagli lineari, i soliti tagli lineari, è la resa del governo e quindi dello Stato all'incapacità di andare a tagliare veramente la spesa pubblica. Metti una bella asta e tagli in maniera orizzontale tutto, è la resa, diciamo, a qualunque ragione, perché penalizzi servizi importanti con un costo e un aggravio di costo per i cittadini, o penalizzi trasferimenti alle regioni con un aggravio di costo per i cittadini, e non vai a tagliare gli sprechi veri. Questo è il problema. Ecco perché, a mio avviso, il governo si è mosso male nella vicenda Cottarelli, perché bisognava utilizzare il lavoro fatto da Cottarelli, poi uno Cottarelli poteva dirgli grazie, arrivederci, come è stato fatto, ma utilizzare quel lavoro, la parte buona, un lavoro durato parecchio tempo, per ripartire da lì, non aspettare dei mesi, perché ci si è distratti. In questo bisogna essere un po' più sul pezzo. Due notizie in breve, poi passiamo al primo tema fiscale. Whirlpool, sesto giorno di protesta allo stabilimento Whirlpool Indesit di Carinaro in provincia di Caserta. Anche questa mattina i dipendenti hanno bloccato gli accessi alla zona industriale, impedendo a decine di camion di caricare e scaricare i prodotti e merci della Whirlpool e altre aziende. Il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, parlando della vicenda Whirlpool Indesit, ha detto: l'azienda deve assolutamente tornare indietro, il suo comportamento è a dir poco vergognoso, i tagli al lavoro sono cose serie, non si viene nel nostro paese per far man bassa e poi decidere di licenziare. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dicevo del tema fiscale, prima però c'è come sempre il commento del giorno racchiuso nei nostri 100 secondi che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, e oggi il commento è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti, sui dati diffusi dall'Unione Europea, da Eurostat, per quello che riguarda l'andamento dei debiti dei paesi nel 2014. Il nostro debito rispetto al PIL è salito al 132% rispetto al 128% dell'anno prima, e il deficit ha raggiunto il 3%. Come mai un peggioramento? Beh, perché il PIL non è cresciuto, ha fatto un segno meno. Non abbiamo speso di più, come sa chiunque. È semplicemente che il rapporto debito-PIL è un rapporto, e se il denominatore continua a calare, ovviamente il risultato finale sarà più alto. Quindi siamo al 132%. Ecco perché si dice anche alla Germania questa Europa, e il governo, devo dire, a mio avviso è troppo timido su questo. Attenzione, se tu non inizi a far crescere il denominatore, il peggioramento nei conti pubblici come rapporto continuerà in maniera inesorabile. Il commento di Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Praterotti. Cresce, ma il debito sì, e non riguarda soltanto l'Italia. I nuovi dati che sono stati forniti proprio oggi dall'Ufficio Statistiche dell'Unione Europea dimostrano infatti in Europa, dove la crescita è bassa, ma invece la crescita del debito complessivo dei paesi dell'Eurozona continua ad essere molto alto. Le ultime cifre parlano chiaro: per l'intera Europa il debito alla fine dell'anno scorso è stato al 91,9% del PIL, dal 90,9% del 2013. È la Grecia soltanto? Certamente la Grecia continua a essere il paese che ha la montagna di debito più alto, e tanto è vero che ne rimane schiacciata. 177,1% del prodotto interno lordo, era il 175% appena un anno prima. E l'Italia? L'Italia è il secondo debito più alto dell'Unione Europea, siamo arrivati al 132,1% del PIL contro il 128% del 2013. Sembrano pochi punti, ma ogni punto sono centinaia di miliardi che si aggiungono al debito dell'Europa e al debito anche dell'Italia. Che cosa dire? È il momento sicuramente di pensare oltre la Grecia. Non basterà salvare infatti Atene dai debiti e dai problemi che ha con i creditori, ma cominciare ad affrontare un problema più strutturale. Affrontare il nodo dei debiti è sicuro, ma guardare avanti e cercare di fare politiche per la crescita significa dare un futuro non soltanto alla Grecia, ma a tutta l'Unione Europea. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, il tema fiscale, mi scrive un ascoltatore, risponderà Barisoni pubblicamente alla Fondazione dei Commercialisti per la questione delle detrazioni sul 730 precompilato? Allora, intanto io non sono un personaggio che deve rispondere pubblicamente nel senso che siamo in diretta su base nazionale e ne parliamo proprio ora. Ci arriviamo tra qualche minuto all'allarme dei commercialisti, che è un allarme giusto, corretto, diciamo, insomma... È un po' come se l'oste dovesse dirti: mi raccomando, mangia da me, perché se cucini il cibo a casa da solo rischi di farlo male. È vero, i commercialisti non è che siano esenti da questo punto di vista un interesse, perché è ovvio che il 730 precompilato rischia di levare parte del lavoro ai commercialisti, ma l'allarme è giusto, l'attenzione da mettere è giusta. Prima di tutto però arriviamo al pacchetto di novità fiscali oggi in Consiglio dei Ministri. Fattura telematica, abuso di diritto, assistenza alle grandi imprese, raddoppio dei termini per le indagini tributarie. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, da quello che ricordo io, la fattura elettronica riguarda ora come ora solo la pubblica amministrazione. Invece, però correggimi, dal 2017 dovrebbe essere estesa volontariamente a tutti i privati, rendendo facoltativo a quel punto lo scontrino fiscale. Questo rientra nel pacchetto di novità che discute oggi il CDM. Sì, la fattura elettronica oggi è obbligatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione, il governo vuole estenderla, ed era previsto dalla legge delega fiscale, anche ai rapporti fra privati, in particolar modo nel cosiddetto business to business, cioè nei rapporti fra aziende. Quale sarà la differenza fondamentale? Sarà che nel caso degli scambi, delle transazioni fra privati, la fattura elettronica sarà opzionale con incentivi, nel senso che per convincere gli imprenditori, le imprese, soprattutto anche le piccole imprese, pensiamo ai negozi, gli artigiani e così via, ad aderire al nuovo regime, il governo mette sul piatto una serie di incentivi, uno dei quali è particolarmente importante, cioè si promette l'addio allo spesometro, cioè quell'altra forma di controllo che impone un carico adempimentale enorme, soprattutto carico adempimentale che cresce in proporzione man mano che diminuiscono le dimensioni aziendali. Se la capisco bene, il ragionamento del governo è corretto, nel senso che dice: se tu come privato volontariamente, perché è facoltativo, aderisci alla fatturazione elettronica, io non solo non hai più l'obbligo dello scontrino fiscale, ma a questo punto tu sei così tracciabile che io non ti rompo più le scatole sullo spesometro, cioè andando a vedere quanto le spese effettuate, ne abbiamo parlato decine di volte, siano compatibili con un certo margine, ma siano compatibili con la tua dichiarazione dei redditi. Per cui in questo modo una semplificazione, noi dobbiamo sempre partire dall'idea del privato onesto, se poi uno vuole evadere è chiaro che non rientra in questo ragionamento, ma del privato onesto una certa semplificazione c'è. Sì, esattamente, lo scambio è questo, se tu aderisci alla fattura elettronica dimostri una certa, diciamo così, disponibilità al controllo, perché la fattura elettronica è interamente tracciabile con un sistema telematico peraltro gestito dal centro, quindi non serve che tu appunto compili lo spesometro, cioè mandi tutte gli acquisti rilevanti, quindi oltre i 3.600 euro, all'amministrazione finanziaria come database per fare i controlli poi nei confronti di chi è andato ad acquistare e così via. Perché? Perché le transazioni vengono rese tracciabili. L'altro grande incentivo che viene dato per chi aderirà alla fattura elettronica sarà la garanzia di avere i rimborsi IVA entro 3 mesi dalla dichiarazione annuale. Altra grande cosa, ci ricordiamo la manovra ultima con lo split payment per la PA e l'ampliamento del reverse charge, sostanzialmente a tutti i fornitori della pubblica amministrazione aveva sottratto l'IVA, cioè la pubblica amministrazione non ti paga l'IVA perché la gira lei direttamente all'erario, con questo colpendo in maniera abbastanza importante la liquidità delle imprese, perché lo Stato è puntualissimo quando deve prendere ma è molto in ritardo certo quando deve dare. Allora la garanzia che a chi aderisce alla fattura elettronica abbia diritto al rimborso garantito dell'IVA, appunto in compensazione del rimborso entro 3 mesi dalla dichiarazione annuale, allora in un mondo normale è una norma di normale civiltà fiscale, da noi rischia di essere una notizia quasi rivoluzionaria. Un grosso incentivo a dire: vabbè, almeno so che entro 3 mesi tu mi paghi l'IVA che mi devi, visto che le tasse me ne chiedi comunque. La cosa importante che interessa molto soprattutto le piccole imprese è che il governo rispetto alle prime versioni ha cambiato strada, nel senso che le prime versioni volevano rendere spintanea la fattura elettronica caricando di nuovi adempimenti chi non aderisse. Hanno cambiato filosofia attuando una filosofia più corretta, cioè dando incentivi, non disincentivi a non aderire, ma incentivi ad aderire, perché lo scambio è questo. Se tu metti sul piatto le tue transazioni con la fattura elettronica, che ripeto è tracciabile e gestita dal centro, non ho bisogno di romperti l'anima continuamente con i controlli. Peraltro, se tutto il pacchetto attuativo andrà in porto come pare, anche la generazione, la conservazione e la trasmissione della fattura elettronica sarà sostanzialmente garantita gratuitamente alle piccole imprese dal sistema centralizzato. Insomma, un pacchetto di aiuti per cercare una volta tanto di non mettere la pistola puntata al contribuente, ma di collaborare. E di questo e su questo è intervenuto anche il sottosegretario del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti, alla fine del Consiglio dei Ministri. Sono 3 decreti legislativi che attuano la delega fiscale, ne seguiranno altri per completare il percorso entro la metà di giugno. I 3 decreti legislativi approvati oggi al Consiglio dei Ministri e che adesso andranno ai pareri delle commissioni parlamentari riguardano la fatturazione elettronica, la internazionalizzazione delle imprese e la certezza del diritto, le norme in materia di certezza del diritto per i rapporti tra contribuenti e fisco. Allora, chiedo un ascoltatore, ma se io come privato aderisco alla fatturazione elettronica, ma le aziende mie partner no, sarò comunque esentato dallo spesometro più degli altri? Da quello che capisco io sì, cioè se tu fatturi tutto elettronicamente, lo Stato ti dice, non ho più bisogno di controllarti con lo spesometro, Gianni. Il principio è esattamente questo, dipende dall'emittente. Se l'emittente la fattura... fa la fattura elettronica, la sua transazione è trasparente agli occhi dello Stato e quindi si merita l'incentivo. Naturalmente poi su tutte le questioni applicative interverranno circolari, tutte le cose che sappiamo, però il principio è esattamente quello, cioè premiare, perché se io uso la fattura elettronica vuol dire che sono disponibile a farmi controllare dallo Stato e quindi non ho bisogno di compilare moduli, modulini, moduletti per tutti gli altri controlli. Allora, su questo è intervenuto anche il ministro Padoan, poi lo ascolteremo e poi arriviamo anche al tema del 7.30, dell'allarme sollevato oggi dai commercialisti italiani. Ricordo che tra l'altro il prossimo 22 aprile, cioè a casa mia domani, mercoledì 22 aprile, il Sole 24 Ore, perché forse dar date uno perde anche il senso della realtà. È decisamente domani. Il Sole 24 Ore esce con un focus, un approfondimento su tutte le novità del modello 730 e tutte le informazioni per la compilazione. Quindi attenzione, ci sono tutti gli oneri deducibili, spese detraibili e quant'altro. Adesso ci arriviamo, prima però il meteo e la pubblicità. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Buon pomeriggio da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, gli ascoltatori di Radio 24. Alta pressione e tempo di conseguenza bello nelle prossime ore, anche nell'intera giornata di domani in tutta Italia. Vi devo segnalare solo qualche locale annuvolamento a ridosso delle zone montuose, soprattutto al sud, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto clima mite in tutto il paese, con le temperature che sono destinate ad aumentare ulteriormente. Domani sarà una giornata calda, al nord potremo toccare i 26-27 gradi e al centro-sud a punte di 24-25. E come se non bastasse, al sole sulla pelle potremo sentire anche qualche grado in più. Valori notturni anche loro più che accettabili, per lo più compresi tra 12 e 15 gradi. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale sul sito trebimeteo.com. Focus Economia. Allora, tema fiscale, perché era oggi il tema del Consiglio dei Ministri, andiamo avanti. E quindi abbiamo, spero, chiarito a sufficienza quello che porterà la fatturazione digitale. Molti mi scrivono il vero incentivo a non avere lo spesometro, dai, e questo lo è. Ancora, dicevo, su questo il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che ricorda, diciamo, verranno ridotti i termini delle verifiche, e ricorda quanto già spiegava bene prima Gianni Trovati: sarà facoltativa ma con degli incentivi. Questa fatturazione elettronica riguarda il settore privato, è una fatturazione facoltativa e non obbligatoria, ma che prevede la riduzione dei termini di accertamento, quindi un'agevolazione per le imprese a patto che sia consentita la tracciabilità delle transazioni. Non sto a sottolineare i benefici sia per il contribuente che per l'amministrazione di avere un sistema che via via si basa sul meccanismo elettronico, in termini di semplificazione, in termini di abbattimento dei costi e in termini quindi anche di efficienza dal punto di vista della politica delle entrate. E poi un nuovo ruolo, diciamo, dell'Agenzia delle Entrate, che non è solo controllore ma diventa anche consulente dei contribuenti. Io so che ci sono molti italiani che in questo momento dicono: l'Agenzia delle Entrate consulente? No, grazie. Però fa notare Padoan che con l'adempimento collaborativo per le imprese oltre i 10 miliardi di fatturato si avvia uno scambio di informazioni che permette anche di avviare una procedura facilitata. Un altro elemento importante di questo decreto è il cosiddetto adempimento collaborativo, e cioè la istituzione per imprese di grandi dimensioni, con volume d'affari non inferiore a 10 miliardi di euro, viene reso disponibile un regime di scambio di informazioni con l'amministrazione fiscale che consente di individuare potenziali controversie e attivare una procedura abbreviata di interpello preventivo, controllore. C'è poi un altro decreto che riguarda varie norme relative alle operazioni transfrontaliere delle imprese che si internazionalizzano con varie modalità. Anche però in questo caso ricordo l'introduzione di un interpello che per le società che desiderano effettuare investimenti nel nostro Paese, con i quali stabilire con le agenzie delle entrate un rapporto che anche in questo caso si può definire di consulenza e di trasparenza, in modo tale che sia chiaro alle imprese che tipo di regime fiscale vige nel Paese dove vogliono effettuare investimenti. Questo è un elemento perché questo decreto contiene molte altre norme che essenzialmente semplificano la normativa e colmano dei vuoti nella normativa medesima, anche in ottemperanza a impegni internazionali. Dobbiamo ancora completare un pacchetto che riguarderà il sistema sanzionatorio nel suo complesso, quindi per coerenza queste misure saranno valutate in quel pacchetto lì, non c'è nessuna altra ragione. Assolutamente nessuna tensione interno al governo su queste questioni e su altre relative alla delega fiscale. Vabbè, prima di arrivare al 7.30 mi chiarisci questa cosa delle imprese oltre 10 miliardi, Gianni Trovati, nel senso che purtroppo in questo paese le imprese oltre i 10 miliardi non sono tantissime, ma perché si avvierà con lo scambio di informazioni una procedura facilitata? Sì, perché la norma guarda anche e soprattutto alle imprese estere che investono nel nostro paese e che tra i tanti ostacoli che trovano c'è anche quella di una normativa fiscale spesso incomprensibile agli stessi operatori italiani, figuriamoci a quelli che arrivano dall'estero, e quindi in questo senso si attua una forma di consulenza preventiva nei confronti di questi grandi soggetti, ma anche per le grandi imprese italiane da anni c'è il cosiddetto tutoraggio per accompagnare la vita fiscale delle imprese. Questo serve anche alla stessa Agenzia delle Entrate, ritorniamo al panorama italiano, perché il grosso, diciamo così, degli accertamenti ovviamente in termini di valore riguarda gli operatori economici più grandi, ma arrivare a Dama con questo tipo di accertamenti è anche molto molto più complicato, e per questo la strada del cosiddetto tutoraggio è una strada produttiva, diciamo così, per entrambe le parti in gioco. E adesso il tema del 7.30 precompilato. Oggi sui giornali i commercialisti italiani dicono attenzione, il 7.30 rischia di far rinunciare precompilato agli italiani, di far perdere 1,5 miliardi complessivamente di rimborsi. La Fondazione dei Commercialisti. Alcuni mi scrivono, i commercialisti stanno facendo terrorismo psicologico per non perdere i clienti. Non lo so. Può essere, non lo so, non ho motivi per dirlo, dico solo che comunque anche mettere l'allarme, attenzione a come compilate il 730, è corretto in chi rappresenta l'assistenza fiscale in questo paese in primo luogo. Se poi uno inizia a fare terrorismo lo vedremo dalle dichiarazioni, ma dire fate attenzione agli elementi del 730, a mio avviso come un medico che dice attenzione ai farmaci di banco, non c'è bisogno della ricetta, però leggete bene le istruzioni. Dopodiché, se vuoi essere sicuro, chiedi a me, e questo è l'aspetto, non è obbligatorio. Però mi è chiara l'obiezione e la perplessità di alcuni di voi sul fatto che i commercialisti possono pro domo loro dire questa cosa, però chi se ne frega se è pro domo loro in questa cosa. A me interessa se c'è o no il rischio, e affrontiamo questo tema dopo il traffico. Focus Economia. Allora, intanto i commercialisti, la nostra Livia Zancanera ha raggiunto oggi il presidente della Fondazione Nazionale Commercialisti, Giorgio Sganga, quello che ha lanciato, la fondazione che ha lanciato l'allarme. E allora sentiamo Sganga dopo l'allarme: 6 milioni di contribuenti rischiano di perdere 1,5 miliardi di possibili rimborsi a fiscali regalando un tesoretto al governo. Noi come Fondazione Nazionale dei Commercialisti abbiamo fatto una ricerca sui dati della stessa Agenzia delle Entrate. In base a questi dati ci saranno solo 3 milioni più o meno di italiani che faranno il precompilato. Se è vero come è vero che negli anni passati ci sono stati milioni di contribuenti che hanno fatto la propria dichiarazione dei redditi stando in detrazione degli importi minimali. Questi stessi contribuenti, almeno un 5-6 milioni, non troveranno convenienza a scaricare il precompilato e riempirlo delle detrazioni, perché il gioco non vale la candela. Se io vado a scaricare il precompilato e metto dentro la badante o le spese sanitarie e faccio un errore o uno lo fa per mio conto, rischio che per avere di rimborso decine di euro, che è il differenziale fra quello che vado a pagare al commercialista o al CARF e le detrazioni a cui ho diritto per essere sottoposto a verifica, non lo faccio. È evidente che quest'anno, quindi, secondo i nostri calcoli, sarà per l'amministrazione finanziaria, per lo Stato, un ritorno probabilmente imprevisto di 1,5 miliardi di euro. Potrebbe essere il famoso tesoretto di cui lo Stato italiano può usufruire. Allora, un attimo, sganga, però anche lei. Il tesoretto di cui parla, perché sennò qui facciamo una confusione, il tesoretto di cui in maniera a nostro avviso improvvida ha parlato Renzi e oggi la Banca d'Italia gli dice occhio, che se hai 2 miliardi, 1 miliardo e 8 che ti avanzano, diciamo così, è solo grazie al fatto che paghi meno interessi sul debito, quindi usali per il debito, non c'entra nulla, sganga, perché sennò veramente... creiamo confusione con quanto lei sta dicendo, e cioè il fatto che invece bisogna stare attenti a come si integra il 730 precompilato, perché gli errori possono far perdere le detrazioni. Questo lo capisco anch'io. Poi i rimborsi fiscali, scusatemi, poi i commercialisti stimano fino a 1,5 miliardi quello che si può perdere, va bene, loro dicono ovviamente fatelo fare da un commercialista. E fin lì è come se vi dico ascoltate Radio 24, non si va molto lontano. Però Gianni Trovati, il rischio in realtà c'è, cioè il rischio, ecco perché poi, o potrei dire per essere ancora più diciamo corporate, leggete Sole 24 Ore di domani, dove tutte le attività da svolgere per la compilazione del 7.30 sarà presente in un focus apposito, che chiaramente è rivolto anche per dare una mano ai commercialisti stessi, perché non è solo per i cittadini normali, i contribuenti normali, i commercialisti che sono un pubblico di riferimento del Sole 24 Ore. Però insomma, al di là dei timori, ci sono questi rischi che uno pensa, vabbè, precompilato aggiungo 1, 2, 3, 4 e poi tra quello che ti costa e quello che non ricevi ci perdi parecchio. Il punto è il patto imperfetto che l'amministrazione finanziaria fa con il contribuente, con il precompilato. Il patto qual è? Se, l'amministrazione dice: se tu accetti il modello che ti precompilo io, ti sottrai ai controlli auto. Io non ti guardo più. Grazie, l'ho fatto io. Quindi, se tu accetti, diciamo così, il 730 che il fisco ti dà senza modificarlo, il fisco non ti controlla. Perché questo patto è imperfetto? Perché quest'anno, l'ha detto anche Renzi, l'ha chiamato numero zero, è una prova in cui manca un fattore fondamentale. Nel precompilato non ci sono le detrazioni, anzi le spese sanitarie che ti danno il diritto alla detrazione. Non ci sono tante cose, però le spese sanitarie sono quelle più evidenti, la fattispecie più diffusa. Allora cosa ne consegue? Che per avere questa detrazione il contribuente deve modificare il precompilato 7.30. e quindi esce da questa garanzia dell'assenza di controlli, perché se io integro il 730 vengo sottoposto normalmente, scusami, però, a controlli. La domanda però a questo punto è: ma a che serve un 730 precompilato? Perché le detrazioni di carattere sanitario purtroppo ce l'abbiamo quasi tutti, fatti salvi, capito, i minorenni e alcune persone con il lisir di lunga vita. È difficile che uno non abbia delle spese sanitarie o dei figli o sue da scaricare, no? Per cui infatti, di fatto stai facendo fuori l'intera platea del paese, no? Infatti la stessa Agenzia delle Entrate, in una serie di audizioni che ha fatto al Parlamento tempo fa, quando si è fatta la normativa sul precompilato, aveva stimato lei stessa che la stragrande maggioranza, cioè nell'ordine del 70-75%, quest'anno avrebbero dovuto integrare il precompilato, e per quello parlavo di patto imperfetto. Quando la macchina sarà a regime, promette il governo, e così via, già dall'anno prossimo, noi dovremmo, con 2M perché il condizionale è d'obbligo, trovare nel precompilato dell'anno prossimo anche le spese sanitarie. A quel punto l'esigenza di integrazione sarebbe molto minore, a quel punto la garanzia dei controlli funzionerebbe davvero. Questo nel futuro che dicono prossimo, sì, beh, oggi no. Resta il dubbio mio del perché non si potesse fare già adesso, cioè non lo facevi partire o farlo partire almeno con la detraibilità delle spese sanitarie, perché posso capire altre spese magari riguardano solo pochi soggetti, però quelle sanitarie obiettivamente riguardano tutti. Non penso che esista qualcuno che non ha speso 10 euro in un anno che può portare in detrazione, che se no cosa ci hai fatto a fare l'allenamento, a un test più che un numero zero? Vediamo come funziona quest'anno, così ci abituiamo, e poi l'anno prossimo speriamo che ci siano anche le spese sanitarie. Meno male che è finito il tempo, così non avrò la tua risposta sul perché non si è fatto, diciamo, perché un po' di maquillage qua c'è. Perché far partire le cose è sempre perché importante. Sì, anche no, vabbè, politico. Per carità, tutto quello che vuoi, però. Quanto manca GR, un po' di maquillage c'è, perché che senso ha poi sbandierare le 730 precompilato se di fatto alla fine devo andare al commercialista per la parte di trazione delle spese sanitarie, se no rischio di far casino e comunque tra l'altro non esco dai controlli, boh. GR24, grazie a Gianni Trovati, poi grazie, ci occupiamo invece del tesoretto che già non c'è più, ma non avevamo avuto dubbi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso passiamo alla borsa. Sì, lo dico a chi mi sta scrivendo, l'esempio dei 10 euro era un esempio così voluto. C'è la franchigia per le spese sanitarie, mi riferisco al 730 precompilato di 129 euro se non ricordo male. Era un esempio per dire attenzione che i commercialisti fanno bene a mettere in guardia da possibili danni che il contribuente si può creare nell'integrazione del 730 precompilato. La critica però è un'altra, immagino che sia stata capita. Comunque la borsa chiude con un calo dello 0,40% Milano, Parigi più 0,1%, Francoforte più 0,4%, Londra più 0,15%, gli Stati Uniti meno 0,4%. Giornata non memorabile ma particolarmente positiva per Salvatore Ferragamo più 4,10%, Todd più 3,5%, Campari più 1,5%, Moncler più 1,5%, ma anche per ST Microelectronics più 4%, CNH Industrial più 3%, la controllante Exor, che controlla anche il gruppo Fiat, più 2,5%. E poi Autogrill abbiamo detta, Luxottica più 0,80, Atlantia più 2%. C'è anche una pattuglia di titoli che però calano e sono tutte le banche popolari. Pop Milano meno 3,70, Pop Emilia Romagna meno 3,40, Banco Popolare meno 2,70, Monte dei Paschi meno 2%. Qui si aggiunge poi Unicredit meno 1,90%. E sul fronte bancario anche Intesa San Paolo perde lo 0,85%. Euro a quota 1,0748, come sempre il commento con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. E quindi commento della borsa oggi con Ceo Condina. Buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, dicevo, giornata non memorabile, c'è un indice ZEV in Germania deludente sulla fiducia delle imprese tedesche, ancora la Grecia sullo sfondo, ce la terremo per un po'. Tra l'altro i BTP greci a 3 anni sul mercato secondario vengono ceduti al 28% di rendimento. Comunque, un male alle popolari, mi sembra però un movimento abbastanza in linea con quanto sta avvenendo da venerdì scorso, Ceo. Sì, sono assolutamente d'accordo, è stata una seduta abbastanza volatile non solo a Milano ma un po' in tutta Europa. Le borse hanno più volte cambiato rotta, prima dopo appunto l'indice ZEV che misura la fiducia delle imprese tedesche, che è stato negativo, poi Wall Street aveva inizialmente aperto bene, quindi le principali borse europee hanno girato nuovamente, alla fine poi Milano è stata l'unica a chiudere in negativo, come dicevi tu, penalizzata soprattutto dal ribasso dei titoli finanziari. Tutte le popolari hanno perso quasi e più del 3%, BPM il 3,7%, ma è stato un po' tutto il settore finanziario a pagare dazio, causa anche uno spread che si è allargato ulteriormente attorno a 140 punti base. E quindi non ci sono novità sul fronte del risico bancario, sono solo vendite. Ebbene però oggi il settore del lusso, e dicevo Ferragamo più 4,1%, Todd's, c'è anche un giudizio positivo, insomma tutto il settore ne ha beneficiato. Sì, diciamo che oggi le banche d'affari si sono esercitate sul lusso, sono usciti vari report da parte di UBS, da parte di JP Morgan, sono stati alzati quelli che sono i cosiddetti prezzi obiettivo, cioè i prezzi che gli analisti scommettono che questi titoli possono raggiungere nell'arco di 6 o 12 mesi. A volte, diciamo, queste operazioni non fanno effetto sulla borsa, stavolta invece hanno fatto parecchio effetto, perché sia Ferragamo che Todd's hanno messo a segno di rialzi piuttosto importanti. Ferragamo è andato addirittura oltre quota 30 euro, è stata la migliore di Piazza Affari. Allora, quando le giornate sono piatte, è chiaro che un po' le banche d'affari e gli operatori devono trovare dei pretesti e esercitarsi, come dicevi tu, in ipotesi, però ci sono anche notizie reali. Mi riferisco al gruppo Autogrill, per esempio, che guadagna l'1,20%, ma c'è notizia industriale, chiamiamola così. Ha siglato i nuovi contratti in Nord America, è una notizia che è arrivata diciamo attorno alle 16, quindi ancora mercati aperti, infatti il titolo poi è chiuso in rialzo dell'1,2%. Quanto valgono questi contratti? Nei prossimi 7-10 anni valgono un fatturato cumulato di 800 milioni di dollari, quindi insomma un'operazione importante che è stata apprezzata dal mercato. Eh sì, nello scalo americano di Houston, se ho ben visto, si sono aggiudicati 15 nuovi punti vendita, in quello canadese di Montreal, con 2 accordi, la gestione di 19 locali, e appunto, come tu ricordavi, gireranno un fatturato complessivo i due gruppi per 790 milioni di dollari. Ancora notizie su ST Microelectronics, qui siamo un po' più sul fronte delle ipotesi, per non dire congetture. Sì, qui c'entra anche molto diciamo ci sono 2 fattori, uno è diciamo la buona trimestrale di IBM oltre le attese di ieri, insomma gli utili hanno battuto le attese, anche se poi c'è stato un effetto negativo legato al super dollaro, però c'è soprattutto l'effetto di un settore tecnologico europeo che oggi è andato molto bene. In Germania le migliori del listino sono state SAP e Infineon, a Parigi la musica è stata pressoché la stessa, quindi c'è stato anche un effetto domino su ST che ha guadagnato il 4%. Ancora Finmeccanica, anche qui giudizi degli analisti, quindi da prendere con le pinze. Sì, Mediobanca sottolinea che sostanzialmente la riorganizzazione, diciamo l'efficientamento, sta andando oltre le attese. Si spiega anche che il titolo è a sconto diciamo rispetto ai principali competitors europei, che comunque sono valutazioni anche abbastanza condivisibili. Certo, Mediobanca raddoppia praticamente il prezzo obiettivo del titolo, lo porta a 14 euro e oggi, se non mi sbaglio, siamo a 11,4. Ancora andiamo su altre notizie. Beh, il gruppo Piaggio, è una cosa che ci fa molto piacere, annuncia che ha venduto e ha prodotto, scusatemi, il 500 millesimo scooter in Vietnam, è una Vespa Sprint 125 donato a questo punto a una scuola dal presidente Colaninno, ma è un bel risultato per il gruppo Piaggio. E invece andando sul fronte internazionale, la casa farmaceutica israeliana Teva, che è leader nel mercato dei farmaci generici, ha messo sul piatto $82 per azione per acquistare la rivale Mylan, che ha un valore di mercato di $33 miliardi. L'operazione vale $40 miliardi e dovrebbe essere eseguita metà in contanti e metà in azioni. Andiamo invece poi sui migliori e peggiori della giornata. Per quello che riguarda i migliori, Sunshine Capital Investment più 19, PRL più 15, Mondo TV più 12, Bion più 12, Basic Net più 7,98%. Invece i peggiori, Kaleido Group meno 5,50, Vray Communication meno 7,70, SafeBank meno 4,40 e poi il credito valterinese meno 3,80%, della Pop Milano abbiamo già detto meno 3,70%, male anche Bialetti Industrie meno 3,80%. Grazie a Cio Condina. Radio Coro, il Sole 24 Ore, il traffico. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Focus Economia. Are you with me? Are you with me? Per l'anno in corso la deviazione rispetto agli impegni circa la riduzione del disavanzo strutturale, un decimo punto percentuale, come ho detto, è modesta, ma in linea di principio e coerentemente con lo spirito della normativa in materia di finanza pubblica, appare opportuno che un andamento tendenziale del saldo migliore delle attese, peraltro dovuto interamente alla minore spesa per gli interessi, a sua volta legata alle eccezionali condizioni della politica monetaria, sia utilizzato per accelerare il riequilibrio della finanza pubblica. È un po' tecnico, però l'intervento oggi in audizione al Senato del vice direttore generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini, a mio avviso, in un paese perlomeno serio, dovrebbe mettere la parola fine al gioco che era partito sul tesoretto e su cui il Sole 24 Ore scrisse lo scorso 14 aprile un commento molto chiaro: se il tesoretto è solo un'arma di distrazione di massa. Poi ripreso come termine da molti altri editorialisti. L'autore era Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Fabrizio, buonasera. Ciao, buonasera. Poi basta con gli spottoni intragruppo. Detto questo, no, a parte gli scherzi, cioè oggi non è il Sole 24 Ore, è la Banca d'Italia che dice, se posso tradurre, se veramente c'è questo tesoretto è soprattutto perché paghiamo meno interessi sul debito grazie ai rendimenti dei bot di BTP ai minimi storici. Oggi addirittura l'Euribor per la prima volta nella sua storia va sotto zero, così come sotto zero vanno i BTP spagnoli, i bot spagnoli a tre mesi. Dicevo, siccome è un risparmio dovuto agli interessi sul debito, utilizzatelo per il debito. Secondo te questa sarà la volta buona che smettiamo di parlare del tesoretto? No, non sarà la volta buona, temo di no. Noi siamo stati in qualche modo accusati ancora una volta, ma ci siamo abituati, insomma, ad essere un po' gufi per quell'editoriale che avevamo fatto. In realtà sono 24 ore, saranno 10 anni che se la prende con chi parla di tesoretti in corso d'anno, perché sappiamo che poi appunto sono margini che si aprono nel bilancio e si chiudono molto rapidamente e conviene tenere appunto quelle piccole aperture per tamponare situazioni nel corso dell'anno che si prospettano. La Banca d'Italia dice appunto assolutamente di utilizzare per l'equilibrio della finanza pubblica, di mantenerle, diciamo, in un ambito prudenziale della finanza pubblica. Non è una novità, ce lo aspettavamo, lo sappiamo, sono anni appunto che quando la politica discute di dividere un tesoretto in corso d'anno, poi insomma c'è un richiamo da parte ora della Banca d'Italia, magari da altre istituzioni, a un maggiore rigore nell'utilizzo di quelle risorse. Tra l'altro lo stesso governo nel DEF, ce lo siamo detti forse già in un collegamento qualche giorno fa, nel DEF il governo scrive che quelle risorse, quelle eventuali risorse, devono essere utilizzate per rafforzare le riforme strutturali, non parla di distribuire un tesoretto, appunto. Devo dire che su questo anche il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squittieri, sempre in audizione sul DEF, e mi riferisco alla parte in cui parla di un miglioramento dei saldi, un eventuale miglioramento dei saldi che deve andare a rafforzare le riforme, dice sostanzialmente la stessa cosa. Se c'è un avanzo, se ci sono dei soldi in più, utilizzateli per le riforme strutturali. Oggi forse più che nel recente passato, le condizioni favorevoli che caratterizzano l'economia dell'Unione offrono quei margini di opportunità che è indispensabile cogliere per portare a compimento i processi di riforma avviati e trarne i benefici in termini di crescita. Di questo è ben avvertito il Governo, allorché nell'impianto di finanza pubblica prevede di utilizzare risorse, ancorché esigue, che dovessero derivare da un miglioramento dei saldi per rafforzare il processo di riforma e per tale finalizzazione dovrebbero essere conservate. È pertanto condivisibile la linea del Governo che nel rivedere l'operare della clausola di salvaguardia in presenza di margini di manovra più consistenti, non rinuncia all'intervento in aree di spesa indicate da tempo come ancora fonte di uscite eccessive e inefficace, con la determinazione, ma anche con la gradualità che le nuove condizioni consentono di prevedere. La Corte ritiene infatti che dalla situazione che si è determinata deve provenire uno stimolo in più per la rapida definizione di riforme economiche e istituzionali volte a rendere più sostenibili e adeguate alle nuove condizioni economiche e alla gestione dei servizi pubblici. Allora, Fabrizio Forché, insomma, è chiaro il ragionamento del Presidente della Corte dei Conti, se questi saldi ci sono rafforziamo le riforme. La Corte dei Conti ha definito oggi credibile in audizione in Parlamento, sempre sul documento economico finanziario del Governo, un PIL in crescita quest'anno dello 0,7%. E anche l'Istat ha detto il primo trimestre ha fatto più 0,1, i ritmi di crescita saranno più intensi nei trimestri successivi. C'è un tema che riguarda le privatizzazioni le partecipate, su cui ti vorrei capire insomma come è messo e qual è lo stato dell'arte del governo, perché abbiamo un po' perso di vista alcuni di questi aspetti, anche perché oggi l'Istat nel dossier sul DEF consegnato al Senato dice: attenzione, delle circa 11.000 partecipate degli enti locali, delle società in cui la quota di maggioranza, molto spesso anche relativa, è degli enti locali, il 32% ha registrato una perdita, cioè una su tre perde, e la parte peggiore nel settore dei trasporti. Nel 2012 circa due terzi delle controllate locali hanno registrato un utile d'esercizio per poco più di 900 milioni di euro complessivi. Il 32,6% ha registrato una perdita per un totale di quasi 1,1 miliardi di euro. La percentuale di imprese in perdita risulta inferiore di circa 4 punti a quella relativa al complesso delle società di capitali. Tra i settori con le quote più elevate di controllate locali in attivo vi sono i servizi idrici e di gestione dei rifiuti e quelli dell'erogazione di energia elettrica e gas. Per contro, il settore dei trasporti è tra quelli con la quota più elevata di imprese in perdita. Allora, edilizia scolastica, ma anche il tema delle privatizzazioni delle partecipate. Fabrizio, ci siamo distratti noi o c'è un po' di cortina fumogena su questo? Un altro dato che l'Istat non ha dato oggi, ma secondo me è ancora più significativo, perché che un terzo perdano ci può anche stare se offrono comunque servizi, certo, poi ai cittadini. In realtà però il 40% di queste società non offrono nemmeno servizi al cittadino, ma sono rivolte tutte all'interno della pubblica amministrazione. Questo secondo me è un dato ancora più clamoroso, ancora più negativo. Purtroppo sì, qui si è accumulato un ritardo da parte del governo. Doveva intervenire quest'estate con lo sblocca Italia, doveva poi intervenire con la legge di stabilità, si è rinviato ancora e ora il provvedimento sulle partecipate è nella delega sulla pubblica amministrazione, che è, per ammissione di Renzi, un po' il provvedimento del governo che per varie ragioni cammina un po' più a fatica. Riforma straordinariamente importante che però appunto va avanti piuttosto lentamente. Fammi registrare però una cosa positiva oggi: noi citiamo sempre le due grandi riforme che hanno camminato più lentamente, Job Act ha camminato veloce. Le due su cui si sono accumulati i ritardi sono la delega fiscale e la riforma della PA. La riforma della PA abbiamo detto, la delega fiscale invece oggi col Consiglio dei Ministri ha visto approvare tre importanti decreti legislativi e questo va registrato favorevolmente. Ah beh, questo sì, ne abbiamo parlato a lungo con il collega Gianni Trovati, perché alcuni di questi riguardano proprio, anzi molti riguardano i contribuenti e soprattutto per quello che riguarda la fatturazione elettronica tra privati. Il provvedimento è molto importante. Sì, da più parte gli ascoltatori ci fanno notare che forse era il caso di procedere con la stessa velocità, o meglio intensità, con cui si è proceduto alla riforma del Senato anche sulla riforma della pubblica amministrazione, però lì insomma le ipotesi sono molteplici. A questo punto però, Fabrizio, nell'insieme abbiamo diciamo un andamento del PIL che anche la Corte dei Conti conferma intorno allo 0,7%, la pressione fiscale oggi l'Istat ci dice che resta al 43,5%. Mi sembra che al di là di alcuni casi specifici, però sul fronte delle manovre, e questo va detto, non si siano registrate tensioni particolari dentro l'esecutivo. No, questo direi di no. Sebastiano, noi siamo tutti che tifiamo per questi dati economici che possono prima o poi girare in positivo. Sappiamo che il contesto internazionale è straordinariamente favorevole, abbiamo dei segnali interni anche positivi. Purtroppo ancora sull'occupazione, sulla produzione industriale, fatica a vedersi questo rilancio. Speriamo mese per mese che sia il momento buono, perché effettivamente il Paese ha bisogno di fiducia, e se non ci saranno degli indicatori positivi, io dico l'occupazione, perché l'occupazione è veramente il dato decisivo. Ora stiamo aspettando il dato di marzo, è il primo del Job Act. Speriamo che lì vediamo finalmente un segnale positivo. E vediamo che i dati siano appunto non embargati, per riprendere l'appello di Luca Ricolfi sempre sul Sole 24 Ore, cioè che arrivino tutti i dati, non ci facciano fare puntate su puntate per capire quanti indeterminati sono ex contratti che vengono trasformati, quanti sono nuovi contratti. D'accordissimo con te che tutti tifiamo per la ripresa, non per il governo, ma per la ripresa, che è un'altra cosa. Grazie a Fabrizio Forchevici, direttore del Sole 24 Ore. Io vi do appuntamento domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Intanto vi auguro buona serata. Radio 24, la passione si sente.